sincero alla mia vita, pensando a far quel che si può. Mi guardo e non mi vedo più. Bombe irriverenti su Kabul, non è nel metodo il rimpianto, ma è una questione di perché. Quanti non si riconoscono più. Ci mette poi la sua linea vocale rap, va che ho fatto, capito? Cioè per me è così, per la cosa la compongo io deve rimanere così. Alla creatività sicuramente no, perché il diritto d'autore non può ledere appunto questo aspetto, no? Della creatività umana, però credo che tuteli invece colui che crea, e quindi secondo me deve esistere il diritto d'autore. Diritto d'autore che deve riguardare l'autore, non la casa discografica. Io la prima persona che ha inventato la macchina sicuramente l'aveva inventato Alfa Romeo. C'è stata una persona che ha inventato la macchina con la carrozza con il motore, dopodiché c'è chi ha perfezionata. Quindi non è detto che se uno inventa una cosa, non è detto che non si possa prenderla e modificarla e farne un qualcosa di artistico. Certamente però scopiazzare è un altro discorso, però. È perché ovviamente è un fatto fisiologico pure che a un certo punto si esauriscono le idee e quindi si fa un capo di percorrere idee già. Idee, percorsi già proposte da qualche altro artista, e in questo caso si va quindi a ledere i diritti dell'artista e però a ledere anche la propria capacità creativa. Ma anche io sostanzialmente penso che qualche scopiazzatura serva un pochino a esprimere la propria creatività, in un certo senso. Intelligenti su Kabul, sopra lo sgomento che ci resta, un incendio ci sorprenderà, quando non controlleremo più. Bombe intelligenti su Kabul, sopra lo sgomento che ci resta, spegni queste finte verità, donaci una possibilità. Possibilità.